soul, intrappolato qui in my soul. Luce, negli occhi si traduce, frizzante quindi sexy il tuo volume. Music, sei tu che stringi le mie scarpe a questo suolo. Lacci bianchi i primi giorni, poi non torni dove dormi, mummy. Ma anche quando amando ti amo mai, non importa se stavolta siamo amanti a Cristo. Così frequentemente a posto che resisto, tacchi alti e come galleggianti spesso sopra i bordi. Drunk and way, son belicchio, ok. E fingersi pirsi, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. La mia pelle è carne che si scioglie, la mia carne è pelle cruda e la mia vita che non screw. Drunk and way, son belicchio, ok. E fingersi pirsi, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. La mia pelle è carne che si scioglie, la mia carne è pelle cruda e la mia vita che non scruda. Drunk and way, son belicchio, ok. E fingersi pirsi, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. Solo per le carne che si scioglie, la mia vita che non scruda. Visto per le strade, no no, inventato niente, no no. Mi cresce accanto da quando, beh beh, vestivo di bianco, e scoprirsi è farsi, e a farsi gliene andate quante quattro, e a darsi gliene han fatte quante quattro. Stiamo dando i numeri, domandi method me, domandi cosa questi ermetici, metici ermeti special ste, fototessere, i seri dietro il vetro e si vacchene, casi vacchene, prosi vacchere, parlo a voce bassa e sento poco. Drunk and bass, son belicchio, ok. E fingersi piercing, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. La mia pelle è carne che si scioglie, la mia carne è pelle cruda e la mia vita che non scruda. No, drunk and bass, son belicchio, ok. E fingersi piercing, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. La mia pelle è carne che si scioglie, la mia carne è pelle cruda e la mia vita che non scruda. Drunk and bass, son belicchio, ok. E fingersi piercing, tatuarsi, viaggi ma solo per darsi. Non si pensa a niente, la notte scorre. Il tempo muore, il furbo vive, l'ingenuo non ha paura. Il grigio è dentro noi, il colore è sempre lontano, ma perché poi? Becchi d'occhi in alluminio, giri per il condominio, reggiseno come stereo per le scale, con fare da faccia di gradino. Facciamo preventivi, si è alzata la temperatura, due giorni fa fiducia ai medici. Oggi, lame sul catrame, demo è speciale, sono un frio su famine sere.